Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori, e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione che tutte le settimane cerca di raccontarvi la politica che progressivamente diventa digitale. Non solamente la politica italiana, che da questo lato procede con le sue lentezze e le sue zoppie, ma in questo caso e questa settimana anche la politica estera. In particolare andremo negli Stati Uniti, torneremo a raccontarvi degli Stati Uniti, un'elezione nella quale hanno avuto un impatto non tanto i social network, non tanto la diffusione della propaganda in maniera così semplice, ma l'utilizzo dei dati, proprio la connessione tra le persone, la connessione tra i volontari, per esempio, della campagna di Obama. E parleremo anche di Cina, perché come sapete è in corso il congresso del Partito Comunista Cinese e toccheremo anche il tema della dissidenza. Ma iniziamo dalle cose nostre. Prima di tutto però vi ricordo come sempre i contatti: votantonio e radio24.it, la nostra pagina Facebook, c'è l'account Twitter votaantonioR24, il mio Simone Spezia. Dicevamo, veniamo alle cose di casa nostra. Ecco, dovessi dare un titolo alla settimana, tolte appunto le elezioni americane, la definirei la settimana del delirio. Primo delirio, lo sapete che ormai sono appassionatissimo all'attività digitale di Roberto Formigoni. Dopo essere apparso in pubblico con un curioso golf bianco e nero da lui disegnato, su Twitter lo mette in palio. For concorso, tanti mi chiedono un formaglione. Il 40 millesimo follower ne vincerà uno. Avanti, for twitteroni. Giusto per capirsi, nel caso non l'abbiate già fatto, quando mette davanti ad una parola il for è per indicare qualcosa che fa riferimento a lui. Mitica è la rubrica video for caffè che trovate sul suo sito. E c'è la rivista online, persino For News, ma insomma c'è stato un problema perché appena fatto l'annuncio l'hanno seguito di botto 2000 persone, ma erano utenti falsi, fake, come si dice in gergo. Settimana del delirio, si diceva, nella quale inseriamo volentieri l'ex ministro Rotondi. Il tweet da cui possiamo partire è il seguente: Mussolini, De Gasperi e Berlusconi sono tre mondi opposti, ma li unisce la identica base sociale declinata diversamente. A chi gli chiede spiegazioni replica con un altro tweet: se non capite il nesso tra Mussolini, De Gasperi e Berlusconi è colpa dei libri che avete letto. E vabbè, ma il meglio sono le chiacchiere in solitaria. Se dovete trasmettere un messaggio a qualcuno di specifico e parlate in pubblico, dovrete fare esplicito riferimento a lui. Per chi non conoscesse i meccanismi di Twitter, funziona nello stesso modo. Se parli con qualcuno, devi citarlo nel tweet. Rotondi ha recepito il meccanismo solo in parte. Dunque la sequenza è: mi vergogno di te, sei veramente invecchiato inutilmente, meno male che vi sistema Renzi. E ancora, rifletti prima di sputare sentenze. E ancora, non capisco il nesso tra l'apprezzamento dell'onestà e il consiglio diuretico. Abbiamo provato a chiedergli con chi stesse parlando, ma non abbiamo ricevuto risposta. Poi, beh, c'è la mitica Flavia Vento, che avete sentito anche ai microfoni della Zanzara. Tra l'altro ha deciso, oltre che di scrivere esplicitamente, di scrivere per metafore, per immagini che vogliono dire qualcos'altro. L'effetto è un po' Radio Londra, che durante la guerra trasmetteva messaggi per la resistenza. Questa, insomma. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Scrive la nostra Flavia Vento: stasera andrò a trovare la mia maga nella grotta dove Ulisse è approdato, 7:10:32, se la caccia al tesoro volete trovare. E ancora, per i ciclamini e i pettirossi, qui nella foresta incantata sta per succedere qualcosa di magico, stanno per trovare l'enigma irrisolto. Perché Flavia Vento si propone come portavoce di Beppe Grillo e aggiunge: in questo momento vorrei scrivere quello che purtroppo non posso fare, o forse sì, ma non me la sento, farei una rivoluzione. Perché invece di scrivere a favola farei cadere tutta l'Italia in 2 secondi, visto che non sono ipocrita e se dico quello che penso, Beppe Grillo mi fa un monumento. Tant'è, questo è il quadro. Noi ci ritroviamo tra un attimo con il punto di Stefano Folli. Italiani! Voto Antonio, Come la rete cambia la politica. Ed eccoci con la seconda parte di Votantonio, dedicata come sempre a raccontarvi un po' questa settimana politica, a cercare di andare più a fondo, insomma, vedere che cosa è successo, analizzarla, comprenderla. Una settimana che si è conclusa, e lo avete visto, insomma, su tutti i giornali in queste ore, con le vicende interne al Popolo della Libertà. Molto si è parlato della questione Grillo e dell'editto sulle apparizioni in TV. Ne tratteremo anche più avanti di questo con i nostri numeri. Abbiamo fatto qualche analisi da questo lato. C'è la questione della legge elettorale, naturalmente ci sono le elezioni americane, sulle quali poi torneremo anche nel corso della puntata di Votantonio. Insomma, è il momento di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua, al telefono questa volta, perché insomma non siamo riusciti ad organizzarci diversamente. Dunque, inizierei proprio dal PDL con questo scontro, poi nelle sedi ufficiali si smorzano sempre i toni in sede di conferenza stampa, insomma, però lo vedi che sono proprio in una brutta situazione. Questo centrodestra che sembrava che dominasse la politica italiana, lo ha fatto per tanti anni, e adesso diciamo che il tramonto di Berlusconi porta con sé questa scia velenosa, questa coda di polemiche aspre. Chissà se, ma tutto il problema è: può esistere un PDL senza Berlusconi? Può esistere un leader che si consacra con queste primarie come vorrebbe Angelino Alfano? Ma soprattutto, può esistere questo mondo che è stato per tanti anni gestito da Berlusconi, dominato da Berlusconi? Può esistere e camminare con le sue gambe? Questo è un gran problema e credo che nessuno abbia ancora la risposta. Quindi Alfano fa bene ad andare avanti, però non deve pensare che non gli sarà regalato nulla, e Berlusconi obiettivamente oggi è il suo nemico numero uno. Ma secondo te, quando ha detto Barzellettieri, pensava a lui? Un po' sì, penso proprio di sì. A lui non lo negherà fino alla morte, ma io penso che pensasse a lui. Lui è molto rispettoso verso Berlusconi, però è anche uno che sta dimostrando tenacia. Non basta nemmeno questo, naturalmente, ci vuole molto talento per riuscire a tenere insieme un partito che è stato molto grosso, molto grande, molto influente nella politica italiana, nel bene e nel male. Questo non è che basta le primarie, ecco, per ottenere questo crisma. Devo dire la verità, Stefano, che Angelino Alfano, un po' tutti noi, non solo nell'ambiente giornalistico, anche al di fuori e anche all'interno del PDL, insomma, lo davamo un po' come il cameriere di Berlusconi, mentre invece è stato bello tosto questa volta. Insomma, dimostra di aver polso l'uomo, tutto sommato, no? Dimostra di avere personalità. È il primo passo, però, per rendersi autonomo. Non basta questo, occorrono molti altri passi. È soltanto all'inizio di una scalata, di una montagna che è molto alta. Ci chiede Giovanni dalla provincia di Udine, che dice di essere un simpatizzante del Movimento 5 Stelle, e ti chiede che cosa ne pensi, così cambiamo argomento e ci spostiamo dal PDL, invece di questo decalogo di Grillo contro le apparizioni in TV, e non solamente, anche su questa complessità nella scelta dei candidati che è stata scelta appunto dal Movimento 5 Stelle, questa modalità. Ma guarda, io non è che io abbia poi questa grande simpatia per Beppe Grillo, però devo riconoscere che in un caso come questo io non mi sento di dire niente di particolare. Cioè, è un movimento nascente, è un movimento che ha un gran successo nell'opinione pubblica. Grillo si fa il decalogo come vuole, se i suoi seguaci lo accettano, che problema c'è? Chi non lo accetta, come è capitato, no? Ci sono alcuni dissidenti anche recentemente, manifestano il loro dissenso e rompono i rapporti. Non lo vedo come un grande tema di dibattito pubblico il decalogo di Beppe Grillo sulle apparizioni televisive. Però Stefano, scusami, tu non credi che un movimento che potranno non chiamarlo partito quanto vogliono, però insomma chiamiamolo un movimento, continuiamo a chiamarlo un movimento, che potrebbe essere il secondo, se non addirittura il primo partito in alcune parti del paese, debba rivolgersi all'opinione pubblica anche attraverso mezzi più tradizionali, diciamo così, non utilizzati. Ma non c'è una regola, Simone, vedi? È chiaro che io posso preferire che si vada in televisione a esporre delle opinioni e così le ascolto e mi faccio una mia idea, ma se Beppe Grillo ritiene che ci sia un'altra strada per comunicare, e indubbiamente lui comunica agli italiani, comunica parecchio, e non vuole mescolarsi con i vecchi partiti, è un suo diritto. Poi decideranno gli elettori, questo è veramente uno dei punti di fondo della democrazia. Se gli elettori giudicano questo editto o questo comportamento lesivo dei loro interessi, volteranno le spalle a Grillo, però per adesso non mi pare che sta succedendo, quindi vediamo più avanti come andranno le cose. L'altro punto che ci evidenzia invece un ascoltatore che si chiama Alberto e ci scrive dalla provincia di Genova, sempre a proposito del Movimento 5 Stelle, dice, è questa, sempre a proposito della TV se vogliamo, ma solamente in parte, questa carenza di confronto, cioè il fatto di non poter vedere quello che di fatto si è posto come un leader nazionale a confronto con altri e confrontare le sue idee con qualcuno che magari picchi un po' su queste idee. Ma va bene, ripeto, io sarei favorevole che questo avvenisse, ma se questo non avviene e se gli elettori considerano la cosa come accettabile, è un problema degli elettori. Anche negli Stati Uniti o in Francia o altrove, alle volte si fanno i dibattiti fra due concorrenti a una carica e alle volte non si fanno, dipende dalle circostanze, non è un obbligo. E poi ognuno si forma la sua opinione, ci sono molti modi per formarsi un'opinione, non è indispensabile passare attraverso il tubo catodico. A proposito di tutto questo, tu hai citato gli Stati Uniti. Noi torneremo a parlarne più avanti di questa elezione del presidente americano, Barack Obama, e ne parleremo perché vi abbiamo raccontato del ruolo che hanno svolto i social network la settimana scorsa. Questa settimana invece vogliamo approfondire un po' più il lato dei cosiddetti big data, la grande mole di dati. C'è qualcuno che ha detto che quella di Obama è stata la macchina politica definitiva, chissà che cosa ci aspetta invece nel 2016, insomma, la capacità di contattare un grande numero di elettori anche singolarmente, e sostengono di averne contattati 2 su 5. Però, di elettori. Simone, sì. Vedi, questo dà ragione indirettamente a Beppe Grillo, perché Beppe Grillo contatta i suoi elettori attraverso il web, attraverso i network, sì. E quindi per quale motivo necessariamente si debba passare attraverso il vecchio dibattito televisivo? Lui usa una strategia che in America Obama ha sperimentato con successo, anzi Obama è andato piuttosto male nel primo dibattito con Romney, no? È stato un momento difficile per lui, e se poi ha risalito la china l'ha fatto proprio perché aveva questi strumenti più moderni di comunicazione. Assolutamente. Come la dobbiamo prendere noi italiani questa vittoria di Obama? Tra l'altro il presidente ha deciso, insomma, non ha chiamato Palazzo Chigi, insomma, tra le prime telefonate che ha fatto, quantomeno. Ma io penso che lo faccia, lo farà, perché il rapporto con Monti è molto profondo, molto serio, come quello con Napolitano. Io penso che l'Italia sia stata fra i paesi al mondo che sono stati più contenti per la vittoria di Obama. E poi c'è naturalmente quello che ricordava il Presidente della Repubblica, no? Questo grande rispetto per questa democrazia americana che si divide, no? Ci si lacera nella campagna elettorale, ma poi si sa sempre ritrovare un punto di coesione nazionale, ci si ritrova dopo le elezioni e si dice quello che è stato eletto è il mio presidente, anche se prima si era su opposti fronti. A proposito di coesione nazionale, c'è qualcosa che noi ci attendiamo da questo lato e attendiamo forse da troppo tempo, e parliamo naturalmente della legge elettorale. Su questo ci arrivano molte mail dagli ascoltatori su questo tema. La notizia della settimana, tra l'altro, lo sapete, è che si è ipotizzato questo premio di maggioranza al 42,5% a chi arriva al 42,5% come coalizione. E continua ad essere una situazione piuttosto fluida, oggettivamente, Stefano, insomma, tra rotture, arretramenti, nuovi accordi. Secondo te voteremo col Porcellum alla fine? No, penso proprio di no. Voteremo con un'altra legge, non sarà più il Porcello, ma a questo punto abbiamo cominciato la traversata del fiume. Magari la nuova legge sarà pessima, io penso che ho anche scritto sul Sole, penso che sia una legge che varrà soltanto nel 2013 e poi sarà cambiata. Però questa riforma a cui si va, qualunque poi sarà il compromesso che si troverà, perché il Partito Democratico è rimasto molto penalizzato, naturalmente si aspettava di vincere con una coalizione forte, con una bella percentuale di seggi, e invece si ritroverà che occorrerà fare degli accordi dopo il voto, il che naturalmente apre infinite polemiche, però sarà comunque una legge che toglie capacità di ricatto alle forze più estremiste, più massimaliste, e quindi in qualche modo, sia pure, mi rendo conto anche delle ambiguità di questo discorso, però in qualche modo dovrebbe favorire degli accordi ampi di governo dopo le elezioni. Un Monti bis alla fine, questo a cui stai pensando, questo, Stefano? Questo molti hanno scritto di questo, però io dico, il Monti bis non può essere il frutto di un'alchimia elettorale. Se fosse solo questo sarebbe un governo debolissimo. Un nuovo governo Monti, se ci sarà, e può essere anche auspicabile che ci sia o forse no, ma in ogni caso se ci sarà deve essere un governo fondato su un accordo politico chiaro, non una strettoia imposta dalle elezioni. Questo deve essere un punto preciso, perché altrimenti sarà troppo fragile questo governo. Ci deve essere una capacità dei partiti presenti nel prossimo Parlamento di dire: scegliamo questa soluzione perché la riteniamo idonea ai problemi del Paese, oppure ne scegliamo un'altra, però sempre ci deve essere la politica, e la politica deve essere fondata sul voto popolare. Grazie anche per questa settimana a Stefano Folli. Grazie, ci risentiamo sabato, e a te naturalmente ti risentiremo tutte le mattine nel giornale del Radio delle 8 con il Punto Quotidiano. Potete scrivere a ilpunto@radio24.it se avete domande per Stefano Folli. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo, parleremo del Movimento 5 Stelle ancora una volta e poi ritorneremo sulle elezioni americane, e nell'ultima parte della trasmissione ci occuperemo di Cina. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. E allora, come sempre, questo è il momento dei numeri con Riccardo Puglisi. Già vi abbiamo accennato qualcosa prima, mentre ne parlavamo con Stefano Folli, che avremmo trattato questo argomento. L'argomento degli show televisivi, dei talk show televisivi e la partecipazione degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Dunque, il famoso editto di Beppe Grillo, chiamiamolo così, scaturito dalla partecipazione a Ballarò di Federica Salsi e la polemica sul punto G, una frase definita maschilista. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, dunque, è stato questo editto che ha scatenato chiaramente delle reazioni e delle polemiche, come minimo. Si vede questo editto, c'è stata questa partecipazione a, come dicevi, di Federica Salsi alla trasmissione di Ballarò, e a stretto giro di posta c'è stata l'editto, quello che tu hai chiamato editto, di Beppe Grillo. Noi abbiamo questa settimana ho guardato cosa fa Federica Salsi su Twitter, cosa viene detto su Twitter a proposito di Grillo e Salsi, e cosa viene detto su Twitter di Grillo e del punto G, di questa battuta direi abbastanza infelice che ha fatto Grillo. Decisamente infelice. Tra l'altro sei anche andato ad analizzare i commenti sulla pagina Facebook della Salsi, che in realtà usa molto più Facebook di Twitter. Assolutamente sì. Vediamo in questa famiglia dei cinquisti, come li hai chiamati tu su Twitter, o five stars come li chiamo io, c'è un uso sicuramente più importante di, non irrilevante l'uso di Twitter, ma è sicuramente più importante l'uso di Facebook. Infatti se uno va a analizzare i tweet della Salsi, che sono circa nel periodo a partire da ottobre 62, quindi poca cosa, il mezzo non viene utilizzato per dialogare, infatti il 5% dei casi abbiamo un dialogo, viene usato per collegarsi il 95% dei tweet hanno un collegamento a Facebook. Da dire, Riccardo, e noi speriamo che non sia offensivo tutto questo per il Movimento 5 Stelle, stiamo cercando un nuovo modo per chiamarli, insomma avete sentito, cinquisti, five stars, perché hanno detto che grillini non vogliono essere più chiamati e insomma oggettivamente attivisti del Movimento 5 Stelle in un titolo non c'entra, abbiamo esigenze di sintesi. Dunque andiamo a vedere qualche numero. Io inizierei dalla famosa battuta sul punto G. Talk show sono il vostro punto G, dice Grillo. Che cosa emerge dall'analisi delle parole da quel lato, Riccardo? Emerge sicuramente il fatto che la componente diciamo sessuale che è inerente all'espressione punto G fa pensare a un aspetto maschilistico, fa pensare a un aspetto di sessismo, quindi entrano parole come al solito, c'è un rimando, un retweet delle battute più utilizzate, sì, tra le parole principali che compaiono c'è battuta, ma una tra le prime parole che compare è Berlusconi, su 525 tweet praticamente in più del 1 su 10 c'è la parola Berlusconi, quindi c'è questo confronto chiaramente da parte dei critici tra la figura di Beppe Grillo che è una figura antisistema e invece quello che potrebbe essere l'emblema massimo del sistema o del sistema passato, Berlusconi. Quindi, tant'è vero che c'è anche Bunga tra le principali. Assolutamente, sessista. E poi ci sono queste parole appunto collegate alla dimensione di quello che faceva Berlusconi e questa visione della donna diciamo non particolarmente paritaria. Vi è anche una battuta, a un certo punto compare per esempio la parola prostata perché qualche attivista del Movimento 5 Stelle, qualche cinquista sottolinea il fatto che anche nell'uomo esisterebbe il punto G e quindi entra pure la parola prostata come legame a questa argomentazione. Oltre che bagaglino insomma a sottolineare ancora una volta l'infelicità della battuta. Esattamente, perché è meglio non usare, diciamo quando si utilizzano parole diverse da quello che uno si aspetterebbe in un discorso, il caso Fornero insegna con Ciusi, bisogna stare attenti perché è facile che le reazioni non siano così positive, cosa che per esempio si vede nelle reazioni dall'altro lato, cioè non sul lato di Twitter ma sul lato di Facebook, che è il mezzo forse più utilizzato. Là anche è interessante perché tu sei andato ad analizzare i commenti che si trovano sui post che scrive su Facebook la Salsi da parte di gente presumibilmente del Movimento. Sì, c'è un dibattito, c'è un numero ampio di persone, Facebook sembra un mezzo più adatto per gli attivisti del Movimento 5 Stelle, piace di più, direi che è anche più prolisso perché permette di scrivere di più, non è che dà un limite di 140 caratteri come Twitter. Io ho analizzato un commento specifico, quello che aveva più commenti, un post, esattamente quello relativo al fatto del non essere sessista al punto G come riferimento perché ce l'hanno anche gli uomini, ci sono praticamente 350 commenti e direi che a parte parole relative al movimento stesso, quindi c'è come se ci fosse una specie di seduta psicanalitica collettiva del movimento, quindi torno come parole come movimento, politica, democrazia, partito, il movimento come cosa positiva, il partito, i partiti come cose negative, le regole, quale regole ci dobbiamo darci, ma per esempio compare la parola solidarietà, compare la parola donna, c'è una, diciamo, mi sembra di capire, dovrebbe chiaramente fare un'analisi anche più approfondita, però il senso sostanziale è che la maggior parte delle risposte siano di solidarietà, anche per questa asimmetria esistente tra il leader del movimento e la persona Federica Salsi, che è una persona rilevante ma è consigliera comunale a Bologna, non ha la forza mediatica di Grillo. Dall'altra parte della critica i commenti negativi sono quelli secondo cui la Federica Salsi ha cercato di sovraesporsi per ottenere notorietà. Questo però il bilancio direi che è nel senso della solidarietà degli interlocutori, di coloro che postano qualcosa. E mi sembra che lo dimostri anche la ricerca delle parole Grillo Salsi su Twitter, dove vedo qua dalle tabelle che mi ha inviato che oltre a Scientology, insomma, che è la battuta della Salsi, che il Movimento 5 Stelle sta diventando come Scientology, esce anche ancora una volta Berlusconi, maschilista, donna, lapidata, ricorre parecchio, maschilismo, tradita, offendere, battuta, insomma, questo più o meno il quadro. Grazie anche per questa settimana, Riccardo Puglisi, ci risentiamo sabato naturalmente, buona giornata. Grazie a te, grazie a tutti. E adesso Torniamo in America. My fellow Americans, last night when I spoke with you about the fall of Rome. Vi sembrerà strano che una trasmissione che si occupa di internet, di politica, parta da un discorso radiofonico piuttosto vecchio, come quello di Franklin Delano Roosevelt, siamo nel 44. Non è un caso, in quasi tutte le campagne elettorali della storia i candidati di successo hanno superato i loro competitors, anche e soprattutto nel comprendere i nuovi meccanismi della comunicazione, non solo per l'uso che ne fanno, ma per il fatto stesso che li usano. Si tratta della capacità di comprendere il potenziale delle nuove tecnologie, di convogliare, ha scritto il Pew Research Center, l'idea che si rappresenta una nuova generazione di leader, più vicina, in contatto con la direzione che ha preso il paese. Prendete Roosevelt e la radio, appunto. Roosevelt capì una serie di cose, che con la radio avrebbe potuto parlare a molte più persone direttamente, che lo avrebbe fatto senza le alterazioni o i filtri di un giornalista o di un direttore di giornale, che in quel modo si sarebbe rivolto anche agli analfabeti o a coloro che non leggevano quotidiani. Secondo alcuni ricercatori dell'Università di Berkeley, il 4 volte presidente creò una comunità immaginata, ossia una comunità nella quale non ci si conosce personalmente, ma nelle menti di ciascuno vive un'immagine della sua comunione con gli altri, abbastanza simile ad alcuni pezzi dei social network. Tutto sommato. President Obama, record numbers of young people elected you in support of a clean energy future. If money is tight, why do you propose wasting billions in expensive nuclear, dirty coal, and offshore drilling? Well, you're not going to get any argument from me about the need to create clean energy jobs. Ed eccoci a Barack Obama e Internet, qua lo avete sentito in una sessione speciale di domande e risposte su YouTube. Come già vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, lo confermiamo, quando si ritiene che la rete abbia chissà quale capacità salvifica e nemmeno che sia stata l'elemento determinante di questa campagna elettorale, di certo ha avuto effetti non ancora misurabili e tutt'altro che misurabili. È iniziato tutto nel 2008, a dire il vero, lo staff di quello che sarebbe diventato il presidente ha raccolto dati e creato una mappa di quali distretti, contee e quartieri erano da monitorare più attentamente. Ha creato modelli che indicavano dove investire più soldi e far lavorare più intensamente i volontari. 4 anni dopo questo lavoro ha dato i suoi frutti, unito a niente di più banale che un'applicazione per smartphone, Obama for America, la dashboard con la quale in questi mesi i volontari hanno aggiornato costantemente l'enorme database. Bussare ad una porta, informarsi sulle posizioni del cittadino appena contattato, inserire le informazioni, ma prima verificare se non sia già stato contattato da qualcun altro. Marciapiede, citofoni e alta tecnologia. This is our online field office, and so... E questa è intervistata dalla PBS e Ashley Bryant, capo della parte digitale della campagna di Obama in uno degli stati chiave, l'Ohio. Questo è il nostro ufficio online sul campo, dice Dashboard, è insieme uno strumento social, uno strumento per riportare i dati, uno strumento per la costruzione della squadra. Tutto quello che potete pensare che si stia facendo offline, stiamo tentando di portarlo online. L'iscrizione è semplice, basa nel tuo indirizzo, il codice postale, dire quali sono le questioni che ritieni più importanti e quelle di cui ti interessi. Progressivamente questo consente di fatto di convogliare il messaggio politico sartoriale, se vogliamo, direttamente su quelle che si ritengono essere le esigenze dell'elettore. Zach Moffat, capo della campagna digitale invece di Mitt Romney, spiega sempre alla PBS che c'è qualcuno di nuovo in campo, quelli che chiama off the grid, fuori dalla griglia. We define them by this term of people who we call time shifters. People who con questo termine intendiamo coloro che non guardano più la televisione, eccetto lo sport, scelgono di vivere le loro vite on demand. Usano DVR, Hulu, Netflix, scelgono il momento nel quale consumare i loro contenuti. C'è un'enorme quantità di persone che non vede nemmeno uno spot televisivo. È di fatto un elettore su tre. Questo cambia drasticamente la necessità di utilizzo del mezzo, il tipo di mezzo che si deve utilizzare per la campagna elettorale. Insomma, si tratta di enormi quantità di dati che sono raccolti anche tramite le tracce che lasciamo sui social network. Un mi piace su una pagina Facebook di una serie televisiva dedicata, per esempio, ad avventure spaziali come Battlestar Galactica può far apparire un messaggio elettorale sul programma per l'esplorazione dello spazio di un candidato. Dallo staff di Obama dicono di essere riusciti a mettersi in contatto con 2 elettori su 5, che, se ci pensate bene, negli Stati Uniti è veramente una cifra enorme. Non solo, ma questo sistema di rendere sartoriale, se così vogliamo, l'informazione elettorale è ancora più esteso, cioè riguarda insomma singoli stati, singole esigenze, occupazione, se si sa che sei una donna dell'Ohio, single con un cane, presumibilmente voterai democratico e presumibilmente il messaggio che ti dovrà essere passato è quello sull'educazione. Insomma, assolutamente una nuova frontiera. Chissà a questo punto come sarà la campagna del 2016. Ci fermiamo, ritorniamo tra poco e restiamo all'estero, andiamo in Cina. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Allora, come sapete, in questa trasmissione ci occupiamo tanto di Italia, ci siamo occupati tanto degli Stati Uniti, lo abbiamo fatto la settimana scorsa, lo abbiamo appena fatto adesso, e però ci occupiamo anche di altri argomenti e di altri luoghi. Nella fattispecie andiamo in Cina, dove è in corso il congresso del Partito Comunista, che eleggerà i nuovi leader, e naturalmente affrontiamo il tema dal nostro punto di vista, ossia il web e la politica, la rete e la politica. Allora saluto Simone Pieranni da Pechino. Simone, buongiorno. Buongiorno a voi. Simone Pieranni è direttore dell'agenzia China Files ed è anche blogger su Wired, sul Fatto Quotidiano, lo trovate anche su Twitter, insomma praticamente ci sono tue tracce online dappertutto, Simone, più o meno, no? Che è paradossale, perché da qua in teoria Twitter ad esempio sarebbe vietato, no, dalla Cina, quindi come vedi si riesce a far tutto. Funziona e non funziona comunque. Allora, io voglio partire da un discorso un po' generale, dalla percezione che noi abbiamo da qua di come in Cina si vive la rete rispetto alla politica. Abbiamo parlato tante volte della dissidenza. L'impressione è che l'atteggiamento dell'establishment politico cinese nei confronti della rete sia piuttosto ambivalente, perché da una parte la devono utilizzare necessariamente, soprattutto essendo un'economia di quelle dimensioni e un paese di quelle dimensioni, dall'altra parte però hanno la necessità di reprimere. È una lettura corretta? Sì. Ci sono più necessità e più bisogni da parte della classe politica cinese nei confronti di Internet, e poi ci sono naturalmente le necessità di chi Internet lo utilizza o per, diciamo, promuovere iniziative, chiamiamole sociali per capirci, oppure economiche. Da un punto di vista ad esempio economico ci sono state moltissime polemiche quando sono state sfigurati sostanzialmente dei siti come Bloomberg o altri, perché chi fa business comunque qua in Cina, anche i cinesi, utilizzano quei servizi. Ad esempio basti pensare al blocco di Dropbox piuttosto che di Twitter o di Facebook o di YouTube, che sono tutti comunque strumenti che ormai in un'economia globalizzata vengono utilizzate anche da aziende cinesi, tanto più quelle che sono nate proprio su Internet. Sto parlando di Alibaba, che è il più grande sito di e-commerce del mondo ormai, o la Huawei, di cui ci sono state recentemente anche tutta una serie di polemiche legate agli Stati Uniti, o lo stesso Baidu, che è in Cina comunque il principale motore di ricerca. Quindi da un lato la classe politica cinese ha cercato di rendere, a dove possibile, Internet anche molto veloce in alcune zone speciali, proprio ad esempio nel sud della Cina, dall'altro però ha cercato di reprimere quello che per loro è la cosa più pericolosa, ovvero la messa in discussione sostanzialmente della centralità del Partito Comunista, che arriva principalmente attraverso alcuni fenomeni che sono quelli dei blog o di Weibo, che è il Twitter locale, che naturalmente viene censurato sia a livello di macchina, cioè attraverso l'inserimento di tantissimi router nelle tracce dell'internet cinese prima che possa uscire dalla cosiddetta grande muraglia di fuoco, che è poi il blocco principale che avviene da parte della Cina, sia manualmente attraverso un vero e proprio esercito che veniva chiamato l'esercito dei 50 cents, perché venivano pagati 5 centesimi di Mao, che corrisponde praticamente al nostro 5 centesimi di euro, per ogni commento a favore del governo nell'ambito di una discussione online che vedesse il governo particolarmente messo male a livello di critica. Quindi un tentativo anche di orientamento attivo, cioè non solo la passività della censura, per così dire, ma anche un tentativo di orientare il dibattito sul web. Assolutamente, perché noi abbiamo la abbiamo avuto la possibilità, quando c'è stato lo scontro con Google, di arrivare a conoscere alcune, diciamo, delle parole che sono vietate di default, cioè quelle che, scrivendole su un qualsiasi motore di ricerca, su un sito o su un Weibo, vengono praticamente automaticamente censurate. E poi appunto c'è proprio un esercito umano che impiega moltissime persone, che invece sta lì a scandagliare il web per censurare proprio a mano, diciamo, quello che viene considerato pericoloso per il partito e per il governo cinese. Quindi c'è sicuramente anche una componente di non solo di controllo lato macchina, ma anche proprio di indirizzamento di tutta una serie di discussioni che avvengono online. Ecco, però l'establishment politico cinese, me lo raccontavi prima, insomma, ci siamo fatti una sorta di chiacchierata preliminare, come si fa sempre, insomma, con chi si ospita, in realtà poi questi mezzi cerca di sfruttarli in qualche modo, insomma, nella stessa direzione nella quale mi raccontavi adesso, ossia per cercare di orientare il dibattito, per fare molto banalmente propaganda. Guarda, ci sono delle utilità di tipo propagandistico, perché ogni ufficio, dipartimento, ministero e naturalmente anche il partito o organo di comunicazione riferito al partito hanno il proprio account, ad esempio Weibo, e utilizzano moltissimo ormai internet per rilasciare tutte le informazioni. Dall'altro c'è anche un utilizzo tra virgolette sociale, perché ad esempio anche la stessa polizia e non so, le aziende elettriche eccetera usano Weibo ormai per dare tutte le informazioni, diciamo, al cittadino. Quindi c'è un uso che è un po' paradossale, no? Perché da un lato viene utilizzato moltissimo e poi, se poi vediamo i siti internet, non so, di giornali cinesi che suggeriscono di seguirli su Twitter o su Facebook, che sono tra l'altro fondamentalmente proibiti qua in Cina. Quindi c'è un utilizzo un po' ambivalente da parte delle autorità, che sanno benissimo comunque l'importanza di internet, perché stiamo parlando del mercato più grande del mondo, perché oltre 500 milioni di utenti. E infatti sia Hu Jintao che Wen Jiabao hanno, soprattutto Wen Jiabao, che è stato un po' quello che si è presentato come il leader più popolare, non più vicino al popolo, ha fatto molte sessioni, ad esempio, di chat con super controllate su Sina Weibo o su altri siti molto importanti qua in Cina con gli utenti. Quindi Non è un utilizzo, diciamo, come può essere fatto da una persona molto giovane, però anche i politici cinesi sono molto attenti. Hu Jintao, tra l'altro, l'ho letto da qualche parte, forse proprio sul tuo blog su Wired, che ha un soprannome curioso in rete, no? Mi sbaglio? Sì. No, infatti questo ad esempio è uno dei modi con i quali sono state superate tutta una serie di censure relative all'utilizzo dei termini, dei nomi praticamente dei politici cinesi. Ad esempio Hu Jintao viene chiamato Carota su internet perché uno dei caratteri del suo nome è simile al modo con cui si dice carota in cinese. Dato che la parola Hu Jintao è stata più volte vietata perché magari appunto venivano fatti dei riferimenti poco carini nei confronti dell'attuale ed uscente presidente cinese, i netizen cinesi hanno utilizzato carota, così come è stato utilizzato un nome di una marca di noodle per descrivere Zhou Yankang, che è un po' il capo di tutta la polizia praticamente cinese, o come è stata utilizzata la parola pomodoro per descrivere ad esempio Chongqing, che è proprio da un'altra assonanza tra carattere di pomodoro e Chongqing relativo alla parola rosso, per descrivere quello. Oppure un altro caso fu quando venne censurata la parola Egitto durante le rivolte nel Medio Oriente, perché Egitto si dice IG praticamente in cinese, e i cinesi utilizzarono altri due caratteri che suonano allo stesso modo ma che significano amare il pollo, però fu un modo fondamentalmente per superare la censura. Fantastico, tra l'altro lo stanno facendo anche adesso in questi giorni con il nome del congresso del partito, no? Sì, perché il 18° congresso del Partito Comunista ha un nome molto lungo in cinese che sinteticamente viene detto Shibada, che vorrebbe dire da solo il grande 18. E dato che appunto anche questa parola è stata sostanzialmente vietata sui social network, i cinesi hanno utilizzato Sibada, che è molto simile ma significa Sparta, e da lì poi è partita anche tutta una sequela di, ovviamente, riferimenti alla difesa di Sparta, che ha trovato molta ironia anche sul web, perché poi su questi cinesi sono spettacolari, si divertono moltissimo, anche perché la loro lingua gli consente tanti giochi di parole che noi senza ideogrammi non possiamo fare, di fatto non possiamo neanche immaginarci. Chiudo con te, Simone, chiedendoti se ci si aspetta qualche cambio da questo punto di vista con il cambio dei vertici del partito, oppure no, insomma, perché comunque gli anni di Hu Jintao sono stati degli anni, mi sembra di capire, di forte stretta, insomma, in realtà l'abbiamo visto e me l'hai raccontato, di forte stretta dal lato del web. Guarda, sì, nel senso che il decennio di Hu Jintao, se da un lato ha visto scoppiare fondamentalmente il web cinese, dall'altro ha visto anche la più grande repressione dal 1989, se si conta che nel 2011, in occasione di quelle che furono definite le rivoluzioni di Gelsomino, sono state arrestate più di 300 tra blogger e attivisti online. Quindi ovviamente è stato un colpo molto duro. C'è stato anche l'arresto di Ai Weiwei, insomma, che è uno che su internet ha sicuramente diffuso tante informazioni ed è diventato famoso. Più che il vertice, potrebbe definire un cambiamento le persone che dovranno andare ad occuparsi di tutta una serie di tematiche che ovviamente sono ancora in stand-by, perché non sapremo niente fino all'ultimo giorno. Xi Jinping, dal canto suo, è uno che sarebbe il futuro presidente, dal canto suo negli incontri di partito, nella scuola di partito, sulle riviste del partito è sempre stato molto coerente con la linea fino ad ora di Hu Jintao, cioè di uno stretto controllo ideologico fondamentalmente, quindi vedremo se ci saranno dei cambiamenti. Secondo me non ci sarà da aspettarsi granché, almeno nei primi tempi, anche perché nel sottobosco cinese, soprattutto su internet, girano moltissimi movimenti grassroots, che possiamo definire così, che possono essere davvero pericolosi. Parlo di questioni relative al neoruralismo, gente che si rifà alla costituzione pre-repubblicana e che su internet insomma tira su molta gente, quindi sarà molto difficile che possa esserci una reale apertura in quel senso. Grazie a Simone Pieranni, direttore di China Files. Insomma, trovate tutti i dettagli, poi vi metteremo tutti i dettagli e tutti i link come sempre sul nostro sito. Vi ricordo anche che questa sera alle 19:15 in Nessun Luogo e Lontano torneremo a parlare del congresso del Partito Comunista Cinese, con uno sguardo naturalmente in questo caso più ampio, insomma più diverso da quello della rete. Grazie Simone Pieranni, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, buona giornata. E chiudiamo così questa puntata di Voto Antonio. Non mi resta come sempre che ricordarvi i contatti: votantonio@radio24.it è l'email, ci trovate su Twitter votaantonioR24, oppure trovate me, Simone Spetia, ci trovate naturalmente, abbiamo una pagina Facebook, anche qua è votaantonioR24. I ringraziamenti: un ringraziamento a Pietro Lacorte per la parte tecnica, per la regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spetia. Ci risentiamo sabato prossimo. Italia!